24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Cari italiani, eccoci qua, sono le 6:33 minuti e siamo nuovamente in diretta anche oggi fino alle 9. Con noi c'è Miriam Lucchetti in redazione e il nostro Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Siamo pronti, tutti pronti, sempre tenendo a mente il consiglione. But please relax. Il consiglio del presidente del consiglio. Please relax, che mancano pochi giorni alla fine della campagna elettorale, possiamo aprire il nostro bar condicio, che poi come chiameremo quando... Se avete finito di rompere le palle con la Minetti, la Minetti, sempre la Minetti, non sapete il caffè, parlare Minetti, d'altro, andate a lavorare, entrano addirittura... Non c'è neanche offerto il caffè, la Minetti già ci dicono di smettere di rompere le balle con la Minetti, vabbè. Comunque, anche oggi Nicole Minetti forse ci offrirà il caffè, a questo punto c'è il giallo, chissà se ce lo offre oppure no. Intanto voglio salutare il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, ben ritrovato Maurizio, eccoci qua. Buongiorno Alessandro, ho una proposta per il bar. Sì, hai una proposta, dicela subito. Bar Raffaeli. Bar Raffaeli, sì, se ho capito. Poi finisce Sanremo, è come bisogna cambiare il bar ogni settimana, però Bar Raffaeli potrebbe essere. Voglio salutare anche Vladimir Luxuria, buongiorno, ben ritrovata, come va? Buongiorno. Potrebbe essere Bar Raffaeli, chissà, non possiamo chiamarlo Carla Bruni, no, perché sennò si offende, no? Quello, cioè, oh, l'avete vista ieri Carla Bruni con la Letizzetto? Vista. Certo, è stato un momento, è stato secondo me, vabbè, dopo 3 minuti che cantava Carla Bruni ho detto bella questa intro musicale, adesso aspettiamo che canti. Beh, cantare è una parola grossa, sì, infatti, diciamo parlava. Prima o poi canterà, stavo dicendo, adesso inizierà a cantare, insomma è venuta a Sanremo, poi c'è stato il momento con la Letizzetto, dai vogliamo iniziare così un po' in maniera leggera. Dammi là, lei è abituata ad avere qualcosa di corto vicino. Questa è stata la battuta più bella della serata, eh? Con noi c'è Carla... Aspetta, ridammi... Con noi c'è Carla Bruni, che è una bella gnocca. Sarà che qui a Sanremo ce ne sono poche. Lei beve l'Armagnac leggendosi Balzac. Io bevo il Grignolin leggendo Topolin. Lei era Premier Dame, io Premier Nan. Io sono restato in Rin con Chiamparin, adesso con Fassin. È andata meglio a te. Lei ha una coscia che è alta quanto me. Io dico le boiate sempre su Rai 3. Lei si è portata a casa fior di Sarkozy. Io spero di uscir viva sabato da qui. Lei ha la Bourguignon. E vabbè, così, insomma, sulla più, cosa posso dire, la, Maurizio, la più celebre canzone di Carla Bruni, sulle note di questa, la conoscevi quella versione? Non è che abbiamo frequentato molto il genere, versione però originale. Io ricordo Fiorello, sì, con un'imitazione, sì, strepitosa, e penso che fosse la stessa aria. Sì, sì, sì, ma c'è da dire, ieri vedevo su Twitter c'erano ste polemiche e ho notato che Andrea Scanzi subito su Twitter ha detto beh, la domanda che ho apprezzato di più di Fabio Fazio è stata quella su Cesare Battisti, a Carla Bruni, che Vladimir Luxuria doveva fargli la domanda su Cesare Battisti, no? C'è stata la polemica perché Carla Bruni e la Francia hanno manifestato solidarietà a Cesare Battisti, condannato per 4 ergastoli. Dovevano terremotare Sanremo così, Vladimir? Generalmente quando ci sono questi ospiti ci si mette anche un po' d'accordo sulle domande. Adesso non so se Fazio aveva intenzione di fargli la domanda e invece... hanno deciso di, anche diciamo così, Carla Bruni, che non voleva questa domanda, perché ci sono degli accordi comunque anche sul tipo di domande che devono essere fatte, oppure se effettivamente dopo anche le proteste di chi non vorrebbe troppa politica, insomma, a Sanremo, hanno pensato che sarebbe stato un po', insomma, al di fuori di Sanremo parlare di questo caso. Sì. Quindi non sinceramente non lo so, io propenderei più per gli accordi forse, Maurizio. Sì, credo che sembra che Luxury abbia perfettamente ragione, l'idea è proprio quella, cioè anche per questioni diplomatiche quasi. Sì, figurarsi se Carla Bruni viene qua con la chitarra in mano e dicono ma tu per caso hai aiutato un terrorista, no? Sarebbe successo, cosa faceva? Ci mandavano un paio di scud da Parigi, no? Come vuole Grillo. Vabbè, sì, sul Festival di Sanremo partivano subito un raid di Hollande per solidarietà, così con l'ex presidente francese ci partivano subito qualcosa di mirato. Vabbè, no, vogliamo dal profano andare al sacro. Allora, oggi molti giornali ancora titolano sulla questione della Chiesa. Allora, la vicenda del Papa che davvero si sta scoprendo anche una vicenda ricca di intrighi, come tutte le cose vaticane. Oggi la copertina di Panorama che ho davanti a me è proprio titolata La Resa con Papa Ratzinger, e si racconta di un rapporto segreto che convince definitivamente Benedetto XVI a dimettersi. Intanto le volevo sentire le parole del Papa, ma è incredibile, ci ha parlato di una Chiesa a tratti deturpata. Sentite. Questa preghiera ci fa riflettere sull'importanza della testimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità, per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Insomma, Maurizio Tortorella, altro che il Papa che passerà la storia per essersi dimesso. Qui c'è un Papa che parla di Chiesa a volte dal volto deturpato, di divisioni, di individualismi. Ma che sta succedendo in Vaticano? Ma è assolutamente in linea con la lettura che ha dato il nostro vaticanista Ignazio Ingrao, e che è appunto la lettura che abbiamo dato noi con la storia di copertina. Tu dicevi prima i giornali ancora parlano, ma è una cosa che mi stupisce il fatto che abbiano già abbassato i toni e che già ieri molti giornali titolassero su altri temi, sulla politica, sugli arresti di Orsi. Le dimissioni del Papa, la sua abdicazione è un fatto storico, certo. Io che sono un laico assolutamente agnostico e lontano da queste purtroppo per me dalla fede, le divisioni di cui ha parlato Ratzinger ieri sono un dato di fatto inequivocabile. La forza con la quale ha criticato le divisioni della Curia, che lui evidentemente ha ben conosciuto in questi anni, sono poi un elemento costante nella storia della Chiesa, addirittura da epoche buie. Sì, ma voglio dire che ci siano le divisioni nella Chiesa, sì, ma che il capo della Chiesa, il pontefice, ne parli in maniera così aperta. Per la verità non è la prima volta, ma nel momento in cui se ne va. Adesso però è libero di farlo. Ma come è libero di farlo? È il Papa. Ma è evidentemente la sofferenza che ha provato, il tipo di approccio che ha avuto da lui, studioso e teologo, evidentemente non predisposto, non preparato caratterialmente per vita anche, sì, a un certo tipo di violenze, di rapporti, sta emergendo. No, ma certo, sta turbando. Ci sono ovviamente su tutti i giornali anche i resoconti di quello che succederà allo IOR. Pare che sia stato scelto il nuovo capo dello IOR. Quindi, anche questa è una scelta. Certo, chi dice che sarà un banchiere belga, chi dice che sarà un banchiere svizzero, c'è però anche un banchiere italiano. Forse verrà nominato l'ultimo giorno, il 28 febbraio, verrà nominato e reso pubblico il nome. Da un laico, Maurizio Tortorella, un'altra laica, Vladimir Luxuria, anche una persona che è stata, no, spesso critica nei confronti del Vaticano. Come si approccia a questa vicenda di carattere epocale, Vladimir Luxuria? Anch'io all'inizio sono rimasta molto sorpresa dalle dimissioni di Ratzinger e, un po' seguendo le prime interpretazioni, le attribuivo a una stanchezza, se non addirittura a una questione di salute. Però dopo le dichiarazioni di ieri di Ratzinger, credo che siano delle dimissioni avvenute per protesta nei confronti del magistero che Ratzinger rappresenta, perché le prime dichiarazioni, dopo aver annunciato le dimissioni parlando di chiesa dilaniata, di divisioni, insomma, lasciano intendere che il sembrerebbe che il Papa abbandona la Chiesa perché non si riconosce più in questa Chiesa appunto deturpata e divisa all'interno. Io credo che se la Chiesa ritornasse a essere più conciliante con la modernità, con una società che cambia, se tornasse a parlare più di questioni spirituali, se tornasse a condannare più fermamente all'interno i propri scandali, sia di tipo economici sia di quelli sessuali, credo che la Chiesa ritroverebbe il suo volto non deturpato. Sì. E chissà, oggi anche il teologo Hans Küng torna a, insomma, a dichiarare a Repubblica, appunto, deve essere una Chiesa che torna, non ci deve essere più un Papa anziano, per esempio, ma neanche un Papa così giovane che poi possa rimanere 30 anni, per esempio, a capo della Chiesa, perché così si romanizza. Lui dice, per esempio, anche lo stesso Ratzinger, il problema è questo, no? Entrare poi nelle pastoie della curia romana. Allora deve essere un Papa capace di non farsi inglobare dalle sabbie mobili di quello che succede a Roma. Però certo, Maurizio, come finirà questa vicenda? Ci sono anche dei rapporti di cui voi parlate oggi su Panorama. Cioè, quale sarà poi questo rapporto segreto che ha convinto il Papa a dimettersi? Il rapporto è la seconda parte di tutta l'inchiesta svolta su WatiLeaks, cioè su tutte le fughe delle notizie che poi erano tanto scandalizzato, tanto agitato il Vaticano, che venne portata al Papa il 17 dicembre scorso. Il Papa incontrò i tre cardinali che avevano seguito l'indagine, diciamo così, all'interno del Vaticano, e uscì dall'udienza estremamente provato. Si confidò con suo fratello Georg, l'unica persona con la quale parlò. Che infatti da mesi dice: io sapevo che c'era qualcosa. Esattamente. E a quel che a noi risulta, è quello il momento, proprio l'istante nel quale inizia il travaglio di Benedetto XVI, che poi ha portato a questa. Insomma, ne vedremo ancora delle belle di quello che sta succedendo in Vaticano. Vi voglio far sentire, ieri Beppe Grillo per la prima volta è andato, credo, a 105? Sì. 105, Monte Carlo, vabbè, sempre lo stesso editore, non ho fatto danni di lesa, ma sta Beppe Grillo che tornerà anche in TV, sentite cosa ha detto, ve lo regalo prima del traffico. Noi fuori dell'Europa ci siamo già, è possibile che non lo capiate, noi siamo falliti l'anno scorso, solo che metà del debito era in mano a due banche francesi e tedesche, quindi hanno mandato padre Merrill, l'esorcista Monti, a fare il curatore fallimentare. Padre Merrill, l'esorcista, visto che rimaniamo così in vicende vaticane. 24 mattino. Ma come mai tocca sempre far ascoltarsi quattro papponi che li metterei in galera appena dicono che se vogliono presentare le elezioni? Saranno dei delinquenti potenziali. Ancora siamo rimasti al 1700, quando, parafrasando Alberto Sordi, il marchese del Grillo, che diceva: oh, io so io e voi non siete un cazzo, ancora siamo lì. Ciao, bello! Caro Milan, vorrei proprio sapere che cosa ha da lamentarsi Berlusconi circa le cozze che frequenta, e le cozze vogliono i soldi, vero? Sono Patrizia di Cento. Sono andata in banca 2 giorni fa perché mi scadeva un botte. La banca ha detto: ma per questo botte ti danno un rendimento troppo basso, perché non compri il nostro prodotto deposito in time? Ecco come le banche ci ringraziano. Ringraziano lo Stato, propongono il loro prodotto. Vorrei sapere chi è quel pollo che crede all'idea che terremo il 75% delle tasse in Lombardia. Gente, svegliatevi, svegliatevi che siamo nella preistoria, svegliatevi! Il debito pubblico è di tutti noi. Di chi l'ha creato il debito pubblico? Non di sicuro mio, che lavoro dalla mattina alla sera e pago tutte le mie tasse. Il debito pubblico deve pagarlo chi l'ha creato? I politici, questi bastardi. Milan, ti prego, di qualcosa ai tuoi colleghi cagnolini che fanno la fila per intervistare Berlusconi. Di rispondergli quando lui dice che il suo è l'unico partito che ha a cuore le famiglie. Sì, ma quelle di Mubarak e delle Olgettine. Ecco, questa è una segreteria telefonica di qualche tempo fa. Siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e con Vladimir Luxuria. Voglio farvi sentire anche Beppe Grillo, visto che si è parlato di donne, si parla tanto di donne. Ieri ne abbiamo parlato delle donne, la politica, gli italiani con le donne, tra battutine e battutone. Sentite ieri sempre Beppe Grillo. Vuoi provare un'altra cosa? Vuoi provare una democrazia partecipata dei cittadini? Noi, il più scemo c'ha due lauree qua. No, ma non era malizioso, era proprio... No, ma voglio dire, se tu conoscessi le persone, i capolista, innanzitutto il 55% sono donne, e non sono donne con i labroni, i culoni di polistirolo, sono donne che tirano su famiglia, figli, ecco, lavoro, i labroni e i culoni di polistirolo. È il più noto amico in Italia di Beppe Grillo, Maurizio Tortorella, tutte le volte ti provoco così. Maurizio Tortorella politicamente lo detesta Beppe Grillo, questo almeno dobbiamo così, no, possiamo dirlo. Posso aggiungere anche che come comico non mi è mai piaciuto. No, dai, allora così lo fai apposta. Ma dai, Maurizio, sei l'unico che non ridevi per Beppe Grillo. È una cosa seria da dire. Ieri comunque un sindaco grillino, quello di Mira, ha licenziato di fatto un assessore allo sport perché è incinta. C'è un giallo su questo, sì, questa è la versione di lei, la versione di lei, sindaco è completamente diametralmente opposta, e sul blog i grillini sono tutti schierati con il sindaco. Perché dice che in realtà poteva garantire solo 2 ore al giorno, ma anche per altri motivi, non per il fatto già da prima. Comunque, è un atto discriminatorio, questo è un dato di fatto inequivocabile e incontrovertibile. Ah beh, sì, insomma. Vladimir Luxuria, Beppe Grillo, come la politica come lo sta vivendo, secondo lei? Sta avendo paura di questo botto che solo Napolitano rischia di non accorgersi del botto di Beppe Grillo, oppure lo guardano con che spirito? Secondo me i dati di consenso verso Beppe Grillo sono sottostimati. Credo che quando ci saranno i risultati delle elezioni saremo tutti molto sorpresi dal dato con il quale Beppe Grillo vincerà, anche perché conquisterà anche di più di quello che dicono. Conquisterà di più di quello che dicono. Poi in questo periodo, ragazzi, leggiamo le pagine politiche, sembrano pagine davvero giudiziarie. Certo. Tangenti da una parte, dall'altra. No, io l'ho detto. Beppe Grillo si sveglia, no? Fa così, si sveglia magari in vestaglia, tutti i giorni apre i giornali e solo per leggere i giornali mette le mani in tasca e trova 200.000 voti. È così ogni giorno. Altro che 75% delle tasse. Qui c'è un altro problema: tutte le percentuali di soldi che si sono beccati quelli delle tangenti da una parte, dall'altra. Questo è il vero problema, cioè i soldi che sono andati a finire altrove. Quindi la gente dice: ma io non mi fido più né degli uni né degli altri. Certo. E votano Grillo veramente proprio per senso di protesta, non perché credono che Grillo possa risolvere i loro problemi, non è questo, ma proprio come dire: vi mando tutti a quel paese. Questa è la notizia. Vladimir Luxuria ha usato le stesse parole che ieri ha usato qui, Vladimir, te lo devo dire, Pier Ferdinando Casini. Abbiamo fatto questa unione incredibile. Ieri Casini ha detto la stessa cosa: votano Grillo per protesta, mica perché pensano di risolvere i problemi. Vladimir Luxuria parla come Casini. No, diciamo che è lui che parla come me. Però lui è arrivato prima qua a dirlo. È incredibile. Poi sulla questione del rispetto delle donne, sai, il rispetto delle donne si ottiene soprattutto con la presenza delle donne. Siamo davanti a una competizione elettorale in cui non c'è una donna protagonista, una che sia una. Anzi, ne approfitto insomma anche per ricordare, a proposito delle donne, che oggi c'è questo bellissimo flash mob di danza il giorno di San Valentino, per ricordare anche proprio il rispetto della integrità anche fisica della donna. Certo, questo sì. Tra l'altro Simone Spezia ne parlerà alle 9. Allora Maurizio, qua la questione è, si leggono tutte le indagini, anche oggi tutti i giornali parlano di, metto insieme Finmeccanica, Montepaschi, Eni, Saipem, per carità non riesco neanche a citarle tutte. Allora c'è la manona giudiziaria, come dice Berlusconi, la manona dei PM al solito, oppure qui la questione è che dobbiamo anche interrogarci su quale classe dirigente abbiamo cresciuto in questi anni e che forse ha spolpato anche parte delle nostre ricchezze italiane. La disputa tra politica e giustizia a questo punto è talmente antica, è talmente ripetuta, è talmente sdata che non se ne può più. Però

per crediti, non per debiti, ma per crediti nei confronti dello Stato che non vengono pagati. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a questo proposito fa un'intervista sul quotidiano nazionale sulle imprese in crisi. Basta promesse, ci vuole una terapia shock. Squinzi boccia le ricette dei partiti. Dice, intervistato da Achille Perego, molti partiti hanno espresso un grande interesse per il progetto Confindustria per l'Italia, segno che la necessità di un cambio di passo è percepita. Il progetto, il cui perno è la logica industriale centrata nel manufatturiero quale motore di innovazione e creazione di posti di lavoro. In realtà la situazione di carenza di liquidità e credito, ci sono appunto i miliardi di debiti che le imprese hanno con la pubblica amministrazione. Dice Squinzi, Confindustria propone come misura cardine il pagamento immediato di 48 miliardi di debiti pregressi. L'intervista la trovate a pagina 16 e 17 del quotidiano nazionale. Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:17 minuti. Voglio salutare un rappresentante del Consiglio di amministrazione della RAI, Luisa Todini, che è con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, sono anche in qualità di spettatrice se parliamo di televisione. Come puoi immaginare anche di, soprattutto di spettatrice e di Sanremo, lo sta vedendo ovviamente. Si parla di un po' una edizione finora sottotono, a parte il botto delle polemiche di Crozza. Che ne pensa delle polemiche? Vogliamo partire da lì? Beh, intanto sul sottotono mi sembra che però gli ascolti non dicano così. Perché gli ascolti sono con un trend di crescita rispetto agli anni, diciamo che Sanremo, a parte qualche piccola situazione negli anni passati, se pensiamo prendiamo un cursore quinquennale, c'è stato sempre un trend di crescita, no? Poi è diventato un grande spettacolo, è il Festival della Canzone, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, però è un grande spettacolo che mi faccio ricordare subito qualche numero, che quest'anno, nonostante le crisi, sta incassando di più a livello di introiti pubblicitari e costa meno alla nostra azienda. Quindi questo mi sembra è inattivo, dice, come conti. Non mi faccio dire che è inattivo, perché ci sono tutta una serie di voci, tra cui la convenzione che abbiamo con la città di Sanremo e quant'altro, che devono essere analizzate anche da questa nuova consigliatura. Quindi non posso dire che, a parte che non posso fare un cosiddetto disclosure dei dati, sì, effettivi, però l'edizione di quest'anno sta incassando di più a livello di pubblicità e costa meno. Azienda. Poi ci sono tutta l'altra serie di voci che attengono ad altro. E riguarda invece, poi magari le vedremo, sì, qualcosa, anche se lei non può fare la disclosure, io non posso esimermi da farle le domande. Senta, la questione delle polemiche, sì. Crozza, lei se l'aspettava queste polemiche? Ma guardi, le polemiche sono iniziate ancora prima che si parlasse di Sanremo, quasi, soprattutto perché c'è stata una campagna elettorale in mezzo che in maniera così contestuale non c'è mai stata, no? con quello che è lo spettacolo più importante, il più grande investimento della RAI, in cui mi sento tra l'altro di fare ovviamente i complimenti a tutta la squadra, in particolare al direttore di Re1. Detto questo, sì, me le aspettavo, in qualche modo è anche un'attrazione, una prima per quanto riguarda la serata. Sì. Se fossi stato in Crozza, o avrei virato un po' di più su dei grandi personaggi non politici che lui sa fare benissimo, o comunque non avrei né iniziato né finito con Berlusconi, la dico molto banalmente. Ha preso la scossa, ha toccato il filo scoperto. Ma sì, ma poi a me diverte molto Crozza, devo essere sincera. Quando ero onorata ospite di Ballarò, oggi non lo sono più perché faccio altro in Rai, ovviamente mi divertiva molto, mi diverte molto la satira, mi diverte molto sono ironica di natura e quindi mi piace molto e lo trovo intelligente. Forse poteva, ecco, con gli autori anche mettere Berlusconi all'interno delle sue gag, ma non iniziare o terminare con Berlusconi. Senta, visto che non si può dire, però glielo chiedo lo stesso, ma si può sapere quanto prende Fabio Fazio oppure no? Ma guardi, c'è un consiglio senza problemi, le dico che la prossima settimana abbiamo un consiglio di amministrazione in cui analizzeremo tutto questo, ma non è che non si può dire, perché si dirà non c'è nulla di segreto, anche perché noi siamo un'azienda di Stato, siamo un servizio pubblico e quant'altro, però siccome noi siamo anche un'azienda sul mercato, allora se io ingaggio una grande star o le faccio un esempio del mio mestiere, se io riesco a portare a termine un lavoro pubblico statale con dei prezzi migliori perché sono più bravi, eccetera, e lo racconto al mio concorrente, in qualche modo falso il mercato, non me lo rovino il mercato. Sì. Allora, abbiamo un consiglio di amministrazione in cui tra l'altro il consigliere Pilato e io abbiamo proprio chiesto, e il direttore già aveva in mente di darci un'informativa su tutto questo e di analizzarlo anche in merito, soprattutto alla luce della normativa che impone alla RAI dei doveri, ma deve rispettare anche i diritti della RAI perché è un'azienda che sta sul mercato, sì, quindi non certo. dobbiamo dimenticarci. La voce che Bianca Balti, top model, prenderebbe 500.000 euro, questa l'ha detto pare. Guardi, mi sento di escluderla. E comunque invece le posso dire, magari il Vox Populi aumenta un po' tutto, no? In qualche modo. Chissà, poi forse mi faccia fare una battuta. C'è anche l'Agenzia delle Entrate che sta cercando di capire quanto costa. Certo. Questa è proprio una battuta alla crocca. Sì. Senta, invece Carla Bruni, che c'era ieri, lei sa che ci sono state le polemiche, c'è anche qui passate persone che, per esempio, il consigliere Verro ha detto è stato sbagliato invitarla. Giorgia Meloni, ai nostri microfoni, ha detto è stata assolutamente incredibile, non doveva essere invitata per la sua ex vicinanza, in qualche modo empatia per Cesare Battisti. Ieri lei si aspettava almeno una domanda da Fabio Fazio su questo? Guardi, le rispondo come Luisa Todini, spettatrice. Io forse non l'avrei invitata, ecco, punto. Detto questo, però pensi che la canzone a me piaceva, per cui siccome... Allora, la canzone di Carla Bruni. Le canzoni di Sanremo sono belle dal mio punto di vista per come è nazional popolare, se uno sta facendo altro e le entrano nell'orecchio. Io in quel momento stavo finendo i compiti con mia figlia. Non mi ero neanche accorta che in quel momento c'era Carla Bruni, perché Sanremo fa compagnia, no? Non è che uno lo guarda 3 ore. Mette la televisione e poi per 3 ore fa altre cose in casa, quindi devo dire che comunque secondo me la canzone non era male. Ho trovato una gag abbastanza, mentre io trovo Luciana Littizzetto brava ma spesso inutilmente volgare, ieri non è stata neanche così volgare rispetto alla prima serata. Secondo me la volgarità non paga mai, soprattutto in uno spettacolo. Però interessante le due cose, lei dice che la canzone di Carla Bruni era gradevole, e era gradevole, questo già per il resto posso essere d'accordo su alcuni tipi di polemiche, però lei ieri era in qualità di cantante, mi scusi, ha fatto altro e ognuno può entrare in merito di quello che ha fatto in qualità d'altro. Siccome poi io sono, penso che il perdono in qualche modo un appello si può concedere a tutti. Ieri Carla Bruni è venuta in qualità di cantante, qualità di cantante, secondo me, ha cantato anche una canzone gradevole. Questo... E poi no, dice Sanremo, tanto si guarda, si accende ma si fa altro, lei faceva i compiti con sua figlia, aiutava sua figlia a fare i compiti, insomma, ma questo è il bello di Sanremo, è che entra a me è piaciuto molto per esempio questo meccanismo di far provare le due canzoni, si scelgono le due canzoni, così gli artisti hanno possibilità di raccontare due versioni di quella che è il loro percorso artistico. Ci sono dei meccanismi secondo me molto, molto carini, molto interessanti. Però le chiedo questo, che ne pensa? Lei è stata anche in passato, ha avuto un'esperienza politica con il centrodestra. Che ne pensa dell'appello di Berlusconi, comunque a dire la minaccia, se diventa un festival politico metà degli italiani non pagano il canone della RAI? Guardi, siamo in campagna elettorale, con questo le ho risposto. Quindi non si auspica certo questo, cioè la consiglio di amministrazione della RAI, che tutti paghino il canone, almeno anche lì l'Agenzia delle Entrate controlla. Quello su cui, guardi, non siamo l'unica televisione europea che paga il canone, anzi la BBC fa pagare un canone decisamente più elevato, poi lei mi può dire dipende dal servizio, dipende da quello che si offre, però qui ci può essere tutto il contrario di tutto. Detto questo, uno degli obiettivi di questa consigliatura è cercare di capire come recuperare l'evasione del canone, e nel momento in cui si individua la metodologia per recuperare circa 500 milioni di evasione del canone, sicuramente attueremo dei meccanismi per diminuire il canone. Questo da quando sarà possibile? Questa è la mia idea personale, che ho portato più volte in consiglio e che mi auguro possa essere, ma che è comunque condivisa, perché se il concetto è se si paga di più si paga meno, questo è verissimo, soprattutto per una tassa che non è, viene chiamata un abbonamento, ma è una tassa, lo sappiamo. Certo, no? Per esempio lei lo metterebbe legato, come aveva proposto un ex ministro Romani, alla bolletta della luce, in modo da... È uno studio che è stato fatto, era una proposta ragionevole dell'ex ministro Romani, però non è così fattibile, perché non c'è un monopolio della bolletta, perché insomma siamo in un mercato liberalizzato. Non è facile. Non è facilissimo, ma stiamo attuando tutti i meccanismi per poterlo... per poter arrivare a rendere meno onerosa questa tassa. Le chiedo un'ultima cosa: è vero che lei vorrebbe un solo TG della RAI, autorevole ovviamente, cioè quindi accorpare e ridurre, a che cosa servirebbe? A ridurre sprechi? Sì, guardi, questa è una mia idea proprio personale da sempre, cioè di accorpare quelle che sono le testate informative e poi magari suddividere in quelle che sono le offerte durante la giornata, non i vari canali. Abbiamo i canali All News, abbiamo il telegiornale più per le famiglie, abbiamo quello un po' più innovativo e quant'altro, però accorpare tutto questo, sai, in Rai noi abbiamo, mi permetto di dire noi, insomma, noi nel senso dei cittadini italiani, abbiamo più di 1900 giornalisti. Sono troppi? Potrebbero essere troppi o troppo pochi, non lo so, però bisogna secondo me fare le cose al meglio. Sicuramente qualcosa di troppo c'è e sicuramente molti di quelli che oggi sono in Rai vengono sottoutilizzati perché abbiamo delle straordinarie risorse. Quindi sono troppi, insomma, si può dire. Possono essere, o magari possiamo trovare delle, poi ci dimentichiamo sempre che la Rai non ha solo tre canali, ne ha 14 tra generalisti e non possono essere, diciamo, reimpiegati meglio, esatto, e quindi poter essere più appili nei confronti del mercato e sperare che la nostra concessione pubblicitaria, la SIPRA, possa avere un trend di crescita come effettivamente ha nelle proiezioni di quest'anno nonostante la crisi. Io intanto la ringrazio, ovviamente buona giornata e buona visione ancora di Sanremo da spettatrice oltre che da consigliere d'amministrazione della RAI. Grazie per essere stata con noi, Luisa. Naturalmente, grazie Luisa a voi, Todini. Buona giornata, arrivederci. Grazie, fa parte del consiglio di amministrazione della RAI Luisa Todini. Noi ci fermiamo 4 minuti e tra 4 minuti alle 8:31 sarà con noi nei nostri studi di Milano il leader di SEL e presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, per i vostri messaggi, se volete 349-238-6666, quindi parleremo strettamente di attualità politica tra poco con Vendola. 24 mattino. Siamo qui allora, eccoci, sono le 8:32 minuti in punto per i vostri messaggi 349-238-6666. Come preannunciato abbiamo in studio, nei nostri studi di Milano, Radio 24, Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia, leader di SEL, che saluto, buongiorno Vendola. Buongiorno a voi. Allora, prima di parlare di tuffarci nella campagna elettorale, nella politica italiana, come puoi immaginare, sono tante le domande che voglio farle. Prima però tutti i giornali aprono sulla vicenda del Papa, che ancora ieri ha parlato, ha spiegato le ragioni delle dimissioni, ha parlato di una Chiesa che rischia di avere anche il volto deturpato dalle divisioni. Lei, che è una persona laica, come sta vivendo questa vicenda del Pontefice? Ma intanto da credente, da cattolico, ho vissuto un grande turbamento perché è un fatto che in qualche maniera scuote dalle fondamenta la Chiesa, mette in discussione un certo cerimoniale, un certo formalismo, è come se ci spinge a ragionare sui fondamentali, la fragilità della condizione umana che viene celebrata dal cristianesimo. È un momento molto alto questo che ha incarnato Papa Ratzinger, e anche perché poi sullo sfondo si intravede una distanza critica netta nei confronti delle beghe di potere che attraversano la curia di Roma. Penso che sia un atto rifondativo della profezia cristiana e della legittimità della Chiesa cattolica. Rifondativo anche della Chiesa, cioè secondo lei la Chiesa ha bisogno anche di una rifondazione, anche a livello di gerarchie, di rapporto con il potere? Io penso che in qualche maniera oggi Papa Ratzinger abbia colto quale fosse l'ispirazione del Cardinal Martini quando segnalava la necessità di rimettere al centro il ruolo dei vescovi, il ruolo dei pastori, una Chiesa che si fa compagna dell'umanità. Ecco, forse il punto che comincia a emergere è la necessità di recuperare lo spirito conciliare. La Chiesa come carezza di Dio, la Chiesa del grembiule, la Chiesa che lava i piedi ai poveri, piuttosto che la Chiesa che intrattiene relazioni talvolta sconvenienti con il potere. Allora, ci tuffiamo in questa campagna elettorale. Senta, intanto la questione con Monti, vogliamo risolvere una volta per tutte, almeno se ci sarà una parola definitiva o no, perché non passa giorno senza che non ve le diate politicamente di santa ragione. È possibile un'alleanza tra lei e Monti post-elettorale? Ma io considero impossibile discutere di alleanze a prescindere dall'analisi che si fa della crisi, dalla diagnosi della malattia di cui soffre l'Italia e l'Europa e dalla terapia che bisogna mettere in campo. Io vivo con grande ansia, ovviamente, il passaggio nel quale rischia di consumarsi drammaticamente il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Vedo l'emergere di populismi reazionari che stanno avvelenando il clima sociale e culturale nel vecchio continente, e vedo delle classi dirigenti miopi, incapaci di dare quello scatto di reni per riacchiappare il sogno, il progetto e l'ambizione. E tra questi c'è Monti. Penso, per esempio, a come si sia concluso il negoziato sul prossimo settennio di programmazione delle risorse comunitarie, un'Europa che ancora svicola rispetto alla necessità di far nascere una stagione espansiva, di reagire con un New Deal alla crisi economica che oggi conta 30 milioni di disoccupati nel vecchio continente e determina una condizione per cui crisi sociale e crisi democratica rischiano di intrecciarsi e rischiano di essere la ragione di una deriva. Ecco, io avrei preferito una classe dirigente europea, di cui Monti non è autorevole protagonista, non lo è abbastanza, capace di spiccare il volo e non di gestire in maniera notarile l'esistente. Però la questione è sempre di voti, la politica si fa con i voti, cioè se dopo le elezioni dovesse vincere il centrosinistra ma senza una possibilità di poter governare, è chiaro che l'ipotesi di un accordo Bersani-Monti è sulla carta, secondo credo molte che, persone. Diciamo, la necessità sia veramente quella di confrontarsi su un programma, e non soltanto. Non esiste soltanto Monti, esiste un Parlamento la cui rappresentanza attualmente è un'incognita. Noi non sappiamo quali sono le forze che entreranno in Parlamento. Il centro-sinistra ha un suo programma. La carta di intenti che io ho sottoscritto, Italia Bene Comune, dice quale debba essere la direzione di marcia. Io credo che di quello bisogna discutere. Il professor Monti in questi giorni è prodigo di idee un po' miracolistiche sul futuro, sembra un po' in concorrenza con Berlusconi. Avrebbe un immediato banco di prova per essere giudicato, per esempio la risposta che tarda al tema del finanziamento della parte restante per il 2012 della cassa integrazione in deroga. Avrebbe come banco di prova l'indicazione dei salvadanai da cui attingere le risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali del 2013. Avrebbe come banco di prova la presa di parola su quel tema penoso rappresentato dagli esodati. Insomma, cioè, lui è ancora Presidente del Consiglio e ha ancora qualche giorno di tempo perché ci possa essere, diciamo, una illuminazione nelle sue scelte. Quindi, insomma, su questi temi mi sembra che una possibile conciliazione, visto che i programmi sono ben diversi, non ci può essere, almeno sulla carta. Guardi, la politica è l'arte anche dei miracoli. Le dico l'ingrediente, diciamo, fondamentale di questa disputa, è la questione del lavoro. Sì. E su questo che Monti ritiene, per esempio, che sia riformismo lo smantellamento di tutte le conquiste del riformismo italiano. Per esempio cambiare lo statuto dei lavoratori, lei lo cambierebbe? No, io penso che il problema è cambiare radicalmente impianto della politica economica e sociale. I problemi del sistema di impresa e degli apparati economici italiani non hanno a che fare con la qualità dei diritti e delle tutele del mondo del lavoro, che in verità vive una condizione di paura e di solitudine. Il problema di un apparato produttivo che è malato per la sua dimensione pulviscolare e che è gravemente ammalato per i mancati investimenti sull'innovazione. Cioè, io vorrei un confronto sulla necessità di mettere in campo un piano per la crescita dimensionale e la crescita qualitativa del nostro apparato produttivo. E se il professor Monti cerca il profilo dell'innovazione, sa benissimo che se viene al sud deve fermarsi in Puglia e soltanto lì trova le trincee dell'innovazione. A proposito di innovazione, è innovazione richiedere il ripristino dell'articolo 18 e smantellare la riforma Fornero come è stata fatta? Ma la riforma Fornero ha fallito i suoi obiettivi. Credo che indicare la flessibilità come lo strumento che avrebbe consentito alle giovani generazioni un accesso più facile nel mercato del lavoro sia stata una rappresentazione ideologica della realtà. La realtà è che un'intera generazione è precipitata nell'angoscia della precarietà, non solo della vita produttiva, ma della precarietà esistenziale. E ma questo non perché tutti i diritti sono garantiti a chi è nel mercato del lavoro e non sono garantiti a chi invece non c'è, e quindi in questo bisognerebbe andare ad una maggiore flessibilità, cioè la rigidità non è garantita da tutti i diritti tutelati dai sindacati, dall'articolo 18 per esempio. La cosa assolutamente divertente e paradossale è immaginare che c'è un mondo del lavoro che è spaccato in due. Da un lato ci sono quelli che godono di garanzie e dall'altro c'è un esercito di precari, e quindi viene invocato come un criterio di equità omogeneizzare tutti quanti a livello della precarietà. Ma questo è non soltanto ingiusto, della flessibilità ingiusto più che precarietà. Ma la flessibilità per chi ha, diciamo, un'alta formazione, forse è una parola che ha un significato, ma in un mercato del lavoro in cui il lavoro è povero e in cui non c'è formazione permanente, flessibilità è soltanto la mascherina che copre la realtà dello sradicamento dal posto di lavoro. Guardi, ma questo per me non è soltanto ingiusto socialmente, non è soltanto lesivo dei diritti soggettivi delle persone, anche perché poi voglio vedere, diciamo così, nella vita reale, fuori dalle rappresentazioni un po' ideologiche, qual è il rapporto tra un giovane e la propria attesa di lavoro. Ma il punto riguarda anche l'irrobustimento della nostra economia, il sistema d'impresa. Non può immaginare che il lavoro sia un impaccio allo sviluppo della propria capacità competitiva. Un lavoro formato, stabile, competente è, dal mio punto di vista, un fattore competitivo. Noi abbiamo visto le aziende che avevano cumulato, inglobato un sapere produttivo alto e raffinato come aziende più capaci di difendersi dallo tsunami della crisi. Lei ha già detto di sì a questa domanda, ma glielo richiedo: lei si fida di Bersani? Assolutamente sì. Cioè non teme che poi, per appunto una questione di numeri, vedremo poi come andranno le elezioni, ci sia la possibilità di dire caro Vendola da parte di Bersani, qui per tenere insieme e avere un Senato forte, dovesse andare le elezioni in un certo modo, dobbiamo anche unirci con i centristi, con Monti, con Casini e con Fini. E quindi torniamo al punto di partenza. Il gioco delle belle statuine, quello che si fa nel palazzo con la P maiuscola, è una delle ragioni dell'crescita dell'antipolitica. Io non riesco a ragionare di alleanze sganciandole da un'idea del paese, da un'idea della missione, del dovere che deve avere questo nostro paese. Ma è possibile che rimaniamo tutti affascinati quando ascoltiamo i discorsi di Barack Obama, il discorso che ha fatto all'insediamento per il secondo mandato, no? La politica come la missione che ha una generazione da compiere, e poi qui invece, quando traduciamo queste cose in italiano, rimaniamo prigionieri di una, diciamo, di una bassa cucina. Ecco. A proposito dell'antipolitica, Grillo è antipolitica secondo lei? La spaventa politicamente l'ascesa di Beppe Grillo? Ma Grillo è una cosa antica. Una cosa antica sembra proprio invece la novità per molti. Ma se uno, diciamo, ritorna a studiare le vicende che hanno accompagnato l'Italia, per esempio a cavallo tra le due guerre nel secolo scorso, si accorge che in tante riviste minoritarie, in tanti protagonisti politici dell'epoca si ritrovano pari pari gli stessi ingredienti polemici. Cioè, durante il fascismo. Come preludio del fascismo, diciamo, le culture dell'antipolitica, alcuni elementi polemici, virulenti, ma anche quell'elemento tipico del populismo, che è l'idea che la complessità sia un'invenzione del maligno, per cui il populista si presenta come un esorcista che scaccia quel demonio, e la realtà è semplice e basta una parolaccia salvifica per purificare il mondo. Però c'è questo rischio, secondo lei, vede in Grillo e in chi segue Beppe Grillo dei germi di quello che fu il preludio del fascismo? No, intanto io distingo tra, diciamo, il discorso pubblico di Beppe Grillo, che ripeto è una mescolanza di ingredienti tra di loro assolutamente contraddittori, l'ambientalismo apocalittico e le battute omofobe, la denuncia del ruolo vessatorio delle banche, ma la difesa del segreto bancario, l'attacco incandescente ai sindacati e la invocazione di una democrazia orizzontale. È una mescolanza di tante cose che ruotano attorno a un partito, diciamo, che nella sua organizzazione è molto più che carismatico, è una specie di proprietà privata, che dal punto di vista di ciò che produrrà come rappresentanza parlamentare è un'assoluta incognita, nel senso che in giro per l'Italia a volte mi pare di cogliere cose interessanti tra coloro che si candidano nel Movimento 5 Stelle. Poi ovviamente c'è Pizzarotti a Parma ed è la prova più difficile, perché un conto è costruire sulle macerie. È un conto è governare. Un conto è governare, studiare, prendersi delle responsabilità, decidere, no? E questo lo vedremo. Allora, ci sono le informazioni sul traffico, siamo con Nicky Vendola, leader di SEL. Rientriamo tra un minuto ovviamente a parlare anche delle questioni giudiziarie, Finmeccanica su tutti e sulle prime pagine dei giornali. C'è anche una questione non giudiziaria, ma una questione che oggi pubblica Panorama, che la riguarda direttamente. Lei ha già detto querelo, Panorama è solo fango, ma insomma spiegheremo tra un attimo di che cosa si tratta. Siamo con Nicky Vendola, leader di SEL, presidente della Regione Puglia. Tra l'altro, devo dire, Vendola, tra tanti messaggi che arrivano, alcuni ovviamente, ma Vendola è anche un po' così, chiedono di parlare meno forbito, perché molti, anche la gente del popolo, capisce meno. Sai, ma lei perché parla sempre così ma forbito? Ma io parlo così. Intanto penso che la politica debba essere educazione e autoeducazione. Sì. Che l'involgarimento e l'impoverimento del vocabolario sia uno dei sintomi della crisi che viviamo. Penso che bisogna ricordarsi quello che diceva Don Lorenzo Milani: l'operaio sa 10 parole, il padrone sa 100 parole, per questo lui è il padrone. E nella storia della migliore sinistra non si è insegnato all'operaio a usare le 10 parole come dei proiettili o come delle lame, si è insegnato agli operai a cercare di guadagnare le 90 parole che gli mancavano. Senta, allora, Finmeccanica, oggi sul Fatto Quotidiano viene ricordato, per esempio sui vari giornali, l'insieme di tutte le inchieste degli ultimi mesi: Montepaschi, Finmeccanica, Eni, Saipem, poi adesso non le ricordo tutte. C'è un problema, secondo lei, di come i grandi manager italiani hanno gestito i grandi capitali in Italia, in questo paese? Sì, intanto. O c'è un problema anche di legame forse troppo stretto con la politica, tra affari e politica? Intanto penso che dobbiamo essere molto preoccupati, perché Finmeccanica è un grande gruppo industriale, è una ricchezza del paese, e quello che sta accadendo è un colpo a quel poco di grande industria che abbiamo in Italia. Penso che bisogna liberare ovviamente non soltanto i grandi gruppi dall'invasione della politica, ma bisogna forse riflettere anche sulle incredibili febbri di cui soffre il capitalismo italiano. C'è anche un problema che riguarda le elite manageriali, le elite tecnocratiche. Insomma, mi pare un po' un giochino troppo facile quello di continuare sempre a buttarla in politica. C'è anche un problema che riguarda la natura del capitalismo italiano, la sua storia, la sua tendenza a infognarsi dentro piccole e malate ambizioni. Io spero ovviamente che questo tema venga affrontato con il pubblico che riprende competenza sulla politica industriale. Il grande vuoto, la grande vacanza che io considero un delitto delle classi dirigenti degli ultimi decenni, è stato immaginare che la politica industriale fosse una competenza del mercato, sottrarsi a una discussione, per esempio, su cosa debba fare Finmeccanica. Io non so perché Finmeccanica ha progressivamente dismesso le proprie competenze, i propri investimenti nel settore trasportistico, nel settore energetico. Avrei voluto dire, e vorrei dire come cittadino, che è molto importante diversificare e specializzare le vocazioni produttive di un sistema industriale così importante. Oggi il compito fondamentale è salvare Finmeccanica e possibilmente rilanciarla, ma purtroppo ci sono nuvole nere sul cielo di Finmeccanica. Veniamo a quello che pubblica oggi Panorama. Lei ha detto Liquerelo. Panorama pubblica un'inchiesta, firma Giacomo Amadori. Il titolo è... Non la chiami inchiesta, la prego. Beh, è un articolo. Anche visto chi la firma. Non è chiaro. Il fango e l'inchiesta sono due cose differenti. Penso che il giornalismo debba reagire, diciamo, all'idea di essere... Cosa dovremmo fare? Andare da Giacomo Amadori al rango del fango. No. Comunque, le relazioni pericolose della sorella di Niki, questo è il titolo. La tesi che si sostiene, con anche foto, e le farò un paio di domande su questo, è che il giudice che ha assolto lei nella recente vicenda della nomina di un primario a Bari è amico, o è stato amico, di sua sorella, amico personale. Intanto questo corrisponde al vero, che lei sappia, cioè il giudice che l'ha assolta e sua sorella si frequentano, si frequentavano? Il giudice amico di mia sorella è quello che mi ha perseguitato in questi anni, è il PM. E il giudice che mi ha assolto è stato presentato a mia sorella dal pubblico ministero che mi ha perseguitato in questi anni. Ma però mi consenta di fermarmi qui, di ricordare ai nostri radioascoltatori di che cosa si tratta. Le devo però fare una domanda su questo, perché Panorama, che lei, ripeto, ha querelato, dice che esisterebbero anche foto di lei e il giudice Susanna De Felice, che l'ha assolto, foto che vi ritraggono insieme, vi ritrarrebbero insieme. Vedremo queste foto. Io non ricordo di aver mai conosciuto la dottoressa De Felice. Ricordo che l'oggetto di cui parliamo è un processo che aveva, diciamo, al centro la nomina di un primario, del quale oggi i giornali parlano come del miglior primario di chirurgia toracica. Ma su questo lei è stato assolto, quindi non è che deve giustificarsi. Aggiungo. No, appunto, sono stato assolto. E non per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste. Sono stato assolto perché il primario non era amico mio. Non era mio parente, era parente di una famiglia a me nemica, non era un mio elettore, era un elettore del centrodestra, era uno che partecipava alle cene di finanziamento del mio avversario. E quindi, in una vicenda per cui oggi avrei dovuto essere premiato, non so per quale ragione, sono stato portato in giudizio. Non me ne sono lamentato, non mi sono lamentato per il fatto che per 5 anni si è tentato di coinvolgermi in indagini giudiziarie dalle quali inevitabilmente esco completamente pulito, perché io non sono Formigoni, non sono un... Che anche lui per il momento innocente. Sì, però, diciamo, tra un abuso d'ufficio per la nomina di un primario che è conclamatamente non amico, non elettore, e la corruzione, l'associazione l'accusa a delinquere, c'è una differenza. Allora, abissale. Vendola, abbiamo un minuto, le chiedo questo. A proposito, lei dopo quella soluzione pianse, immagino, per la commozione, e il ministro Fornero ha detto: vorrei capire che differenza c'è tra le mie lacrime, per le quali mi hanno inchiodata per un anno, e le lacrime di uno come Vendola o di Bersani, che anche loro possono piangere, io no. Che differenza c'è? Ma perché io mi occupo di più delle lacrime che il ministro Fornero ha prodotto in decine di migliaia di famiglie italiane con la riforma previdenziale e con la coda drammatica degli esodati. L'ultima battuta allora questa: lei avrebbe voluto vedere a Sanremo i due ragazzi gay baciarsi come avevano annunciato sul palco, o avrebbe giudicato questo gesto una provocazione fine a se stessa? Ma vivo una certa pena per il fatto che mentre Cameron da conservatore e Hollande da socialista aprono le porte al matrimonio gay in Inghilterra e in Francia, e mentre Barack Obama, appunto, nel famoso discorso di investitura per il secondo mandato, indica nell'eguaglianza dei diritti la nuova frontiera della vita americana, Qui bisogna immaginare di poter vedere al Festival di Sanremo due ragazzi che si baciano, e bisogna sapere che c'è inevitabile la polemica di Carlo Giovanardi. Insomma, mi viene di dire che anno è. Siamo prigionieri di un anacronismo e di una classe dirigente ipocrita e bigotta. Ci dobbiamo fermare qui. Ringraziamo Nichi Vendola per essere stato con noi negli studi di Radio 24, e l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6:30. 24 mattino.